2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda tutte le settimane venerdì 22-23 oppure domenica alle 13.30 fino alle 14 con una mini replica. Ma come sempre vi ricordo che trovate tutta la nostra puntata in versione integrale, anzi con tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi a volte più lunghe di quelle che ascoltate in onda alla radio, nella nostra versione digitale podcast sul nostro sito internet o tutte le applicazioni che gestiscono il podcast sul vostro smartphone. È molto facile da raccogliere, da trovare. Questa settimana si è tenuto Oculus Connect, che è stato un appuntamento dedicato alla realtà virtuale, è tenuto da Oculus, quindi di fatto da Facebook. Si è parlato di realtà virtuale, di visori di realtà virtuale, con uno sguardo anche verso il futuro. C'è chi dice che la prossima stagione natalizia sarà la prima vera stagione con un'offerta di mercato vasta e ampia per la realtà virtuale, quindi strumenti completi come Oculus, come il Vive di HTC, come il visore di Sony per la PlayStation, ma anche oggetti diversi dove si infila uno smartphone e lo smartphone fornisce potenza di calcolo e anche il visore. È comunque un mercato ancora molto piccolo e anche le previsioni da qui ai prossimi 4-5 anni dicono che sarà un mercato da non paragonare con altri, tipo ad esempio gli smartphone. Pensate che forse i più ottimisti, come quelli di Uniper, hanno fatto un'analisi e a fronte di un mercato come quello degli smartphone che vale 400 miliardi, tutto l'ecosistema della realtà virtuale vale appena 5 miliardi oggi e ne potrebbe valere 10 volte tanto nel 2021, quindi un mercato su cui ci sono ancora molti punti interrogativi. Addirittura più contenute sono le stime di altre società e quindi insomma un mercato che deve ancora trovare delle motivazioni molto forti. C'è poi un altro grande tema, che è quello della realtà aumentata, che è un'altra cosa rispetto alla realtà virtuale, e su quello direi che forse per un po' di tempo ci si era dimenticati di questa tecnologia, di queste possibilità, ma soprattutto nel settore professionale si stanno facendo cose molto molto interessanti. È un tema su cui torneremo, su cui parleremo nelle prossime puntate di 2024. Mandateci magari anche le vostre sollecitazioni, i vostri commenti, le vostre idee su questi temi: realtà virtuale e realtà aumentata. Adesso alcune notizie in breve raccolte durante la settimana. Digital News. Il consorzio USB, che definisce le specifiche tecniche e le evoluzioni dei vari tipi di connessioni USB, che sono quelle che usiamo con la nostra chiavetta USB, ha completato le specifiche 3.0 dell'USB Audio Device. Questo vuol dire che ora i produttori di smartphone, ma anche di tablet, computer e qualsiasi altra periferica hanno uno standard audio comune e il consorzio scrive: l'audio digitale tramite connettore USB tipo C, perché su questo ultimo tipo è stato sviluppato questo standard, permetterà ai produttori di togliere la presa jack analogica, riducendo lo spessore dei prodotti e riducendo il numero di connessioni, di connettori presenti. Hanno iniziato alcuni produttori come Motorola e anche Le Echo, un produttore cinese, e poi grande eco ha fatto Apple con la scelta appunto di togliere il jack audio, ma ovviamente di andare sul proprio standard, lo standard di connessione Lightning e non su USB. Però diciamo, per tutto il mercato c'è USB e adesso c'è anche questa specifica nuova audio. Digital News. Satispay, che è uno dei più innovativi sistemi di pagamento su smartphone, ha fatto un accordo con l'Unione dei Radio Taxi d'Italia, che devo dire insomma si sta muovendo abbastanza bene, pur con tutte le limitazioni di budget di una sola rappresentanza, perché se tutti i tassisti si mettessero insieme avrebbero sicuramente molto più budget per fare una bella applicazione. Comunque Radio Taxi Italia con l'applicazione IT Taxi sta facendo un buon lavoro. Nelle prossime settimane su 12.000 taxi e anche su questa app IT Taxi sarà possibile pagare con Satispay. Digital News. Secondo il rapporto Clusit, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, un rapporto appena presentato, sono cresciute del 9% le attività compiute online con finalità criminale rispetto al semestre precedente. Fra tutti gli attacchi, il 71% è rappresentato da cybercrime, quindi crimine informatico, il 16% da attivismo online, l'11% da spionaggio o sabotaggio e un piccolo 2% da attività di guerra informatica, ma noi siamo ovviamente ai confini di questa attività. Continuano a crescere, secondo il rapporto Clusit, il ransomware, quindi i ricatti digitali, e anche il phishing. Digital News. Mastercard ha lanciato anche in molti paesi europei, dopo averlo fatto in Nord America, molti paesi europei, ma non c'è l'Italia tra questi, un nuovo servizio di autenticazione per aumentare la sicurezza dei pagamenti. Allora, invece di usare una password, un PIN, c'è un sistema che si chiama Identity Check Mobile e basterà inquadrare con lo smartphone la propria faccia, sbattere gli occhi per far sì che lo smartphone capisca che siamo vivi e quindi non stiamo inquadrando una fotografia, e in quel modo ci si autentica e quindi si evita di utilizzare una password. Sicuramente tutti i profili biometrici come l'impronta digitale, la nostra faccia che ha una caratteristica unica, insomma sono tutti sistemi che verranno utilizzati nei prossimi anni proprio per l'autenticazione. C'è chi sta pensando ad esempio al battito del cuore. Digital News. Un'ultima notizia riguarda Samsung, che ha annunciato di avere acquistato Vive Labs, una società che ha creato un assistente virtuale in grado di comprendere il linguaggio naturale basato su sistemi di intelligenza artificiale. Questa è una nuova frontiera su cui stanno andando molti capitali e molte aziende. Questa società, tra l'altro, era stata fondata 4 anni fa da due persone piuttosto competenti in materia, perché erano i due creatori di Siri, che poi avevano venduto questa tecnologia all'Apple. Good morning. Thank you for being here. Quella che sentite è la voce di Sundar Pichai, che è il CEO di Google, quindi il numero uno di Google, che in settimana ha introdotto un evento molto importante in cui sono stati presentati alcuni prodotti hardware, ma vedrete che dietro all'hardware, che è sicuramente una novità per un'azienda come Google, che non è certo nota per l'hardware, dietro a tutto ciò c'è molto di più. La stragrande maggioranza dell'attenzione è stata posta su due smartphone che sono stati presentati, che si chiamano Pixel. I'm very excited to introduce you to a new phone made by Google. We call it Pixel. Bene, per parlare di come cambia la strategia di Google, che cosa c'è dietro queste novità che Google ha presentato questa settimana, è con noi in questa puntata Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentornati agli ascoltatori. Ed è collegata con noi dalla California Carolina Milanesi, che è analista a Creative Strategies. Benvenuta e bentornata a 2024. Sempre un piacere. Gianfranco, partiamo da quello che è stato presentato. Partiamo forse dalla cosa che meno attira l'attenzione, ma è l'unica non novità, cioè un'evoluzione di un prodotto, Chromecast, che è una piccola aggeggio, una piccola chiavetta che si attacca al televisore. Una chiavetta HDMI che si collega in Wi-Fi a internet e permette di ricevere, quindi in streaming o da internet o dalla rete locale, quindi per esempio da uno smartphone, dei contenuti per visualizzarli sul TV. Questa Chromecast esiste già, direi che forse è il prodotto hardware fino a ieri, fino a oggi, tuttora di maggior successo di Google, che arriva anche nella sua versione ultra, cioè ultra HD e quindi 4K, cosa che mancava alla Chromecast precedente e che oramai una mancanza si faceva sentire, visto che Netflix e molti altri servizi, YouTube stessa, che è di Google, permette lo streaming di contenuti 4K, e Chromecast era un collo di bottiglia, non lo è più. Molto bene, questa è l'evoluzione. Tutto il resto invece è una novità. E tra l'altro ricordiamo che Google è sicuramente più famoso per i servizi che per l'hardware, perché oltre a Chromecast abbiamo visto degli smartphone, ma che sono stati sempre fatti in collaborazione con altri brand, con HTC, Samsung, Huawei, Asus, Motorola, eccetera, eccetera, LG. Assolutamente sì, erano strumenti per, come dire, per creare una piattaforma di benchmark per Android, che sì, però venivano fatti in collaborazione, sì, certo, sotto la supervisione di Google, ma in collaborazione con produttori terzi. Questa volta la conferenza è stata incentrata sulla presentazione di altri prodotti hardware firmati Google e basta. Quindi sicuramente prodotti non certo in una fabbrica Google, ma progettati completamente da Google, che escono a marchio Google, che quindi entra prepotentemente, più prepotentemente di prima sicuramente, nel campo dei produttori hardware. Si parte da uno smartphone che si chiama Pixel, quindi si abbandona il nome Nexus, c'è un nuovo nome, sempre con una X un po' assonante, ma comunque un nuovo nome, anzi due smartphone, perché ci sono le due dimensioni, 5,5 pollici di dimensione dello schermo, e è un buon smartphone, forse ottimo anche su alcuni punti di vista, però niente di rivoluzionario apparentemente. Quindi qualcuno, non capendo forse il sottotesto, cioè cosa c'è dietro una mossa di questo tipo, è rimasto un po' deluso, dice ma insomma è comunque un prodotto importante, annunciato a $649, quindi a partire da, quindi nella versione più piccola, $649, quindi neanche un prezzo aggressivo o così aggressivo come erano stati alcuni Nexus in passato, e quindi uno dice ma perché dovrei comprare un telefono come questo? E invece c'è di più. Una parte, l'unica parte non dedicata all'hardware della conferenza stampa, è stata incentrata poi sull'intelligenza artificiale, perché in realtà uno dei plus di questo telefono è quello di integrare nativamente sin da subito il Google Assistant, quindi vogliamo dirla semplicemente il Siri di Google, ecco, sì, tanto per intenderci, che però promette di essere un pochino più evoluto di quanto, di quanto Siri non sappia fare fino ad oggi. E poi il visore un po' hipster, qualcuno ha detto, come stile di tessuto, molto, molto carino da vedere, il visore virtuale, per la realtà virtuale, per questo Pixel. Perfetto. Quindi diciamo un companion di questo Pixel, ma sempre un prodotto hardware. E poi altri due prodotti hardware, uno forse apparentemente meno interessante, ma invece magari lo è anche, che è Wi-Fi, Google Wi-Fi, che è un piccolo barilotto che di fatto è un access point intelligente, che crea una rete mesh in casa, quindi permette di estendere molto facilmente la rete Wi-Fi in tutta la casa, mettendone anche più di uno, tant'è vero che una delle confezioni è proprio a tre di questi Wi-Fi, si distribuiscono nella casa e loro ci pensano loro a creare una Wi-Fi robusta e molto facile da configurare, quindi assolutamente user friendly per l'esigenza che oramai hanno tutti di coprire una casa che magari è estesa o dove la Wi-Fi non è accettabile. E poi Google Home, che è un ibrido tra uno speaker e un hub della Smart Home e anche un diciamo terminale fisico di questo Google Assistant, di cui abbiamo anche già parlato, sì, che interagisce vocalmente con l'utente. Quindi una mossa sempre hardware, ma verso la Smart Home, il mondo Nest, che già oramai è diventato il grosso campo di battaglia dei grandi colossi americani. Poi ci torniamo su questo, perché ci sono prodotti simili, ci sono altre aziende che stanno andando verso questa direzione, e comunque stiamo parlando di prodotti, in questo caso stiamo parlando di una cosa grande come un barattolo di marmellata da tenere in casa. Sono prodotti interessanti che segnano un po' alcune linee verso il futuro. Tu dicevi giustamente che bisogna leggere tra le righe, perché non bisogna fermarsi all'hardware, perché qualcosa sta cambiando di Google. Allora vorrei chiedere a Carolina Milanesi che cosa sta cambiando dal tuo punto di vista. Guarda, secondo me se abbiamo ascoltato da vicino quello che ci hanno detto l'altro giorno all'evento, è chiaro che lasciamo Android e ci focalizziamo su Google. Se guardiamo Pixel nei confronti di Nexus, la strategia sembra veramente cambiata. Non solo perché Google ha fatto e mette il suo nome sul telefono per sé, in realtà non è la prima volta che fanno i telefoni loro. Se pensiamo che Motorola era parte di Google, in teoria era un loro telefono quello che facevano sotto il marchio Motorola. Ma adesso quello che è importante è vedere come non è come nel Nexus, dove era, come ha detto Gianfranco, il modo migliore di vedere Android, no? Era questo benchmark per la piattaforma. Adesso il telefono è diventato Pixel, è diventato il modo per vedere Google nella sua forma più splendente. E questo è il cambio di strategia, non è più la piattaforma, sono i servizi. Quindi prima si parlava di Android, nella purezza di Android, adesso si parla dell'esperienza più ricca che puoi avere di Google. E sai che in questo modo stanno cercando di convertire, se vuoi, gli utenti di Android di fascia alta dal essere un utente di Android, un utilizzatore di Android, a diventare un utilizzatore di Google, che è diverso. E gli dà un'opportunità di, visto tutti i vari pettegolezzi su prenderanno Android in casa, lo chiuderanno, non faranno più, non contribuiranno più alla versione aperta. Questo gli dà la possibilità, se vogliono, di controllare la piattaforma in un altro modo, quindi non di portarsi tutta la piattaforma in casa, ma di decidere chi avrà accesso alla Google Assistant e chi no. C'è stato nella stampa diversi articoli che hanno detto che per ora Google Assistant non arriva su Android Nougat, ma rimane soltanto su Pixel, che ti fa un attimino pensare, perché in teoria più persone hai che usano Google Assistant, più intelligente diventa l'assistant, quindi limitarla a due telefoni sembra un po' una cosa che non faccia molto senso. Però dobbiamo capire un po' di più che tipo di utente usa questo tipo di feature. Non sono gli utenti di massa ancora, siamo ancora early adopter, siamo ancora chi ama la tecnologia. E quindi persone che hanno un certo interesse ad avere un telefono di fascia alta, un dispositivo di fascia alta. L'altra cosa che secondo me è ovvia per quanto riguarda la differenza tra Nexus e Pixel è quanto importa Google. Cioè, già ieri abbiamo visto il New York Times, USA Today, delle pagine intere di advertising. Hanno anche cambiato come arrivano sul mercato. Prima la distribuzione dei Nexus era tramite il Google Store, adesso è tramite Carrier, non soltanto come unlocked, quindi non soltanto a prezzo pieno, ma con le facilitazioni che puoi avere quando vai attraverso un operatore mobile, quindi Verizon qui in America, EE in Inghilterra, Deutsche Telekom in Germania e via dicendo. Quindi il canale è una differenziazione, è una importante, perché altrimenti non sarebbero riusciti a vendere tanto quanto penso che sperino di fare. Il prezzo però, come diceva Gianfranco, è sicuramente mette il telefono a pari passo con l'iPhone, che non è una fascia così semplice da vincere. E nonostante tutte le battutine che secondo me dopo un po' incominciavano anche un po' a stancare, no? Contro l'iPhone durante l'evento, in realtà secondo me chi ha più da perdere in questo nuovo lancio è Samsung. Il venditore che fino adesso nella parte di Android è stato quello che ha aiutato di più a livello di creare il mercato. Quindi sarà interessante vedere come questa relazione, che è sempre stata un po' di amore e odio, continuerà andando avanti. Avrei tantissime domande, adesso ve le propongo. Gianfranco, c'è chi dice che questa strategia sta andando verso un modello tipo Apple, che controlla hardware e software. Sì, se ne sono letto un po' di tutti i colori in questi giorni, ma devo dire la verità, io non credo che negli intendimenti di Google ci sia quello di rubare, in questa fase, di rubare clienti alla fanbase, a Apple, non credo che ce la possa fare, poi ce la possa fare con questo prodotto, ma il modello sì, cioè è quello che secondo me è diventato chiaro a questo punto a Google, che senza un controllo completo dell'esperienza, la reputazione di Android poteva pagare dazio. Faccio l'esempio, che è stata una slide sottovalutata, secondo me, della presentazione, che riguarda gli aggiornamenti. Cioè il terminale Android delle mille marche di cui sono disponibili soffrono, rispetto ad iPhone, di una tara storica, non ricevono aggiornamenti o li ricevono sporadicamente, quindi escono le nuove versioni di Android, non vengono fatte le distribuzioni per i vari terminali. Certo, perché ogni produttore deve preparare, dovrebbe preparare e compilare con certo. I driver e le versioni opportune per i processori montati la versione del nuovo sistema operativo, ma ormai il telefono è venduto, è andato, la base clienti forse non è neanche così fidelizzata nel mondo Android, a parte qualche brand, e gli aggiornamenti spesso non si fanno. Gli unici che ricevono gli aggiornamenti erano appunto in Nexus. Una slide diceva aggiornamenti automatici su Pixel, quindi è una feature che le persone, gli utenti iPhone oramai danno per scontato, che se l'hardware non è troppo vecchio il nuovo iOS arriverà gratuitamente anche su quel terminale. E invece il punto è dare un'esperienza, avere il controllo completo dell'esperienza. Il controllo completo dell'esperienza lo puoi dare solo se hai il pieno controllo del software, e va bene, ma anche il pieno controllo dell'hardware. Allora, la vera mossa, secondo me, nei confronti del modello Apple è proprio questa. Quindi si libera un po' del produttore del solo sistema operativo e dei servizi che ci stanno attorno, e aggiunge la dimensione end-to-end di tutta l'esperienza dall'inizio alla fine. E questo è la cosa, secondo me, più importante. Carolina, secondo te si creeranno due Android? Cioè il modello Android come l'abbiamo descritto adesso, un po' più simile all'esperienza Apple, e l'Android, non so se chiamarlo, di serie B, che utilizzeranno tutti gli altri produttori? Cioè questa strategia sta segnando un cambiamento o non sarà così forte? Ma in realtà hai già dei livelli diversi di Android, perché dal momento in cui è stato creato c'era la possibilità, dire la verità, ce n'erano tre di livelli di Android proprio all'inizio. C'era il livello che ti dava tutti i servizi di Google, c'era il livello che te ne dava quanti ne volevi ma non dovevi per forza prenderli tutti, e poi c'era il livello aperto che ti dava la piattaforma di base, che è quello che hanno usato tutti i venditori che hanno poi voluto fare un fork, quindi una separazione di Android, e mettere dei servizi loro sopra quello che era il kernel della piattaforma, no, il core della piattaforma. Quindi in realtà hai diverse esperienze già adesso. Secondo me quello che vedrai è non tanto un Android diverso, ma un'esperienza diversa. Come dicevo, a proposito, adesso è più a che fare con Google che non Android, quindi Android rimane quello, quindi avrai altri telefoni che hanno Nougat, però non avranno l'Assistant, che è un servizio in realtà. E sembra una sottigliezza, ma c'è una differenza tra quello che Google chiama servizio e quello che chiama una componente della piattaforma. Quindi per loro è facile difendere che c'è un solo Android, quello che ci metti sopra è diverso. Ti faccio una domanda sull'intelligenza artificiale, perché quando parliamo di Google Assistant, l'assistente di Google è un sistema che si basa su le tecnologie di intelligenza artificiale. Questa segna anche questa, così come sta tentando di fare Siri, un po' meno Cortana di Microsoft, almeno per diffusione, ecco, è un po' la tendenza di oggi, dei prossimi mesi, anni, degli smartphone, perché diciamo la verità, molti smartphone sono molto simili tra di loro, almeno se guardiamo a certe caratteristiche, e bisogna cominciare ad inventarsi qualche cosa. I servizi sono una di queste cose, e servizi così evoluti come quelli che si basano su intelligenza artificiale probabilmente saranno una delle cose sexy degli smartphone dei prossimi anni. Sì, sicuramente l'intelligenza artificiale, AI, sarà una parte importante non soltanto degli smartphone, ma di tanti altri oggetti che ci circondano, no? Tanto è vero che abbiamo Google Home, abbiamo Echo di Amazon, e ci aspettiamo delle altre cose. Quello che è importante, secondo me, sottolineare è che nonostante ci sia tanta discussione al momento di quello che è l'artificial intelligence, ci sono diversi livelli di intelligenza e parliamo, mettiamo AI e voice assistant e digital assistant come una cosa unica e non lo sono. Cioè, la digital assistant è un modo di vedere l'intelligenza artificiale, una parte dell'intelligenza, ma l'intelligenza sta in altre parti del device, in altre cose che facciamo. Per esempio, può essere nel nostro email che ci vede quelle sono le email che sono spam e le email che invece arrivano da qualcuno che voglio leggere o che ci aiuta a capire quando facciamo una ricerca sotto come search su Google come sono le cose quali sono le cose più importanti e quelle meno importanti. Ci sono tante cose. Che sono intelligenti, ma che non hanno una voce. E secondo me al momento la parte sexy è la voce, e quindi è parlare della digital assistant, e poi vedi invece chi ha un'offerta di cloud, chi ha un'offerta che ha a che fare non solo con i consumatori, ma con le aziende, dove la discussione diventa più a livello proprio di artificial intelligence e quindi di dati. Di capacità di essere smart e tante volte le due cose vengono tutte messe insieme, quindi secondo me per il consumatore è ancora difficile capire effettivamente che cosa vuol dire che il mio telefono abbia artificial intelligence. Gianfranco. Sono assolutamente d'accordo e se calo questo discorso nella realtà italiana, credo che per il momento tutti i personal assistant di qualsiasi brand essi siano più dei giochi da demo in famiglia o fra amici per stupire che delle vere applicazioni. Ma questo per un semplice fatto, ancora oggi c'è gente che mentre guida cerca di digitare, in maniera anche tra l'altro molto pericolosa, cerca di digitare dei messaggi su WhatsApp e non ha ancora capito che oramai praticamente tutti i telefoni permettono la dettatura, banalmente. Qui non stiamo parlando di intelligenza artificiale, non Sì. stiamo parlando di personal assistant, stiamo parlando di schiacciare il microfonino, parlare per Sì. mandare un testo. Riconoscimento vocale, Riconoscimento tra l'altro, vocale. funziona benissimo. Funziona benissimo, Sì. senza l'apprendimento che c'era una volta, cioè, malgrado ciò non viene usato. Quindi sono applicazioni esoteriche per certi versi, che useranno molte poche persone, ma che sono, come ha detto giustamente Carolina, molto sexy. E quindi sono d'appeal, si fanno raccontare, fanno parlare del prodotto. Io non credo che in questo momento veramente ci sarà, almeno in Italia, un uso importante di questi assistenti personali. Non c'è, forse l'intelligenza artificiale raggiunta oggi non è ancora, dagli assistenti vocali, non è ancora Certo. completa, ma credo che la Sì. strada sarà ancora lunga da questo punto di vista. Tu, Carolina, hai citato Amazon Echo perché su questo fronte effettivamente il prodotto che Google ha chiamato Home assomiglia, fa un po' il verso ad Amazon Echo, che dicevo è una specie di grande come un barattolo di marmellata che uno mette magari in cucina e chiede cose e questo gli risponde. Visto che questo prodotto non esiste ancora in Italia ed è distribuito negli Stati Uniti, è diffuso? Cioè, quando tu vai a casa di qualcuno trovi gente che ha questo tipo di prodotti o è ancora una cosa un po' da nerd? Non è tanto da nerd come pensiamo, ovviamente io non vivo nel posto migliore per fare un'analisi buona, visto che sono nel cuore della tecnologia, quindi se vado a casa di qualcuno c'è più possibilità che lo vedo che non lo vedo, però in generale è stata una cosa che ha veramente sorpreso e credo che la sorpresa dell'adozione non soltanto dai nerd, ma anche cioè da persone che si sì, amano la tecnologia, ma non da necessariamente comprare sempre le ultime cose che escono, è la semplicità dell'installazione, primo, e poi la semplicità di come tu puoi parlare ad Alexa e di creare questa diciamo, relazione quasi, no? Con questo barattolo, come lo chiami tu, di marmellata in casa. Al punto tale che mia figlia, che ha 8 anni e mezzo, quando è arrivata Alexa, con il pacchettino di Amazon, abbiamo fatto il setup insieme e le ha chiesto subito di far suonare una canzone. E la sua risposta, quando effettivamente fatto sentire la canzone che voleva, è stata: wow, è più intelligente di Siri, mamma, la possiamo tenere? E è stato veramente, ci sono voluti 5 minuti di legare in una maniera molto quasi emotiva, come se fosse una persona, come se io avessi preso una babysitter invece che un barattolo di marmellata. E questa è una cosa che secondo me è importante, perché è una differenza tra Siri, tra Cortana e Alexa e Google Assistant, che è questa cosa che non ha una persona. È un po' che parlo nella famiglia della diversità tra, secondo me, quello che è Mary Poppins e Jarvis. Io posso avere tutte e due come le mie assistenti personali, ma è un'esperienza molto diversa. Jarvis conosce me, è il mio assistente, il mio butler, è il mio cavaliere che mi aiuta nelle situazioni più immaginarie, no, che ci sono. E invece Mary Poppins è quella che aiuta la famiglia. Non è ancora chiaro, secondo me, queste assistenti che sono in casa, che ruolo hanno, specialmente Home, che al momento può essere solo collegato con un account, quindi è un Gmail address piuttosto che un calendario, quindi conosce una persona della famiglia, non tutta la famiglia. Invece, come diceva Gianfranco, quando vedi demo, sembra che veramente fanno tutto loro, no? Conoscono tutto, conoscono. Ma se io dico: c'è traffico per andare in ufficio e il device al setup con mio marito, dice a mio marito se c'è traffico, non a me. Quindi ci sono ancora tantissime cose che a livello di famiglia dobbiamo vedere, capire e veramente decidere che tipo di assistenza vogliamo. Molto bene, io ringrazio Carolina Milanesi per essere stata con noi. A presto, buon lavoro. Arrivederci, a presto. Gianfranco, per concludere, diciamo anche che abbiamo parlato di prodotti che non sono disponibili in Italia. Al momento no. Esatto, a parte forse il Chromecast che Chromecast arriverà Ultra, sì, molto però ecco, probabile, sì. gli altri non c'è una data di rilascio in Italia, soltanto Stati Uniti, UK, Questo Germania, potrebbe ecco qui. lasciar pensare che si tratti anche ancora di una sorta di esperimento, no? Beh, quando insomma, si fa un lancio di questo tipo, beh, sappiamo che ci sono paesi in cui i terminali arrivano prima e in cui arrivano dopo. Diciamo che questo retrogusto di esperimento c'è sempre quando si ha a che fare con Google. Google ci ha insegnato, proprio abbiamo sperimentato sulla nostra pelle il lancio di una serie di prodotti, in realtà servizi più che altro, visto che l'hardware è un po' una novità del momento, lanciati come alfa, come beta, lanciati agli sviluppatori, fatti partire, poi o cambiati, cioè, riposizionati con un cambio di servizio e cambio del nome, o addirittura proprio spariti, cioè vengono fermati, bloccati, cioè, Ah, io con mi una ricordo Wave. Guardate che io sono andato a una Wave. conferenza stampa, cioè la gente si arrampicava sui muri perché c'era un'attesa pazzesca di questo strumento di comunicazione che poi è finito nello, è stato chiuso, Sì, poi adesso fallito sono. totalmente. Sì. Cioè, quindi, con una scioltezza tutta da Silicon Valley, che magari ai grandi corporation della old economy, diciamo così, non veniva assolutamente spontaneo, Google si sente a suo agio nell'aprire servizi, aprire quindi anche prodotti e poi chiuderli se non vanno bene. Ecco, resta sempre questo dubbio. Quindi, Pixel è un sorvegliato speciale, almeno per noi osservatori in questo momento. Vogliamo cercare di capire che strada sarà. C'è il braccio di ferro con Samsung, l'abbiamo citato prima. Cioè, qui non è Apple che c'ha da perderci, è Samsung che c'ha da perderci, perché Samsung ha Android con la Dipende molto sua da Android, certo. personalizzazione. E è vero che Google avrebbe qualche problema se Samsung, che ha una quota rilevantissima di mercato in tutti i mercati del mondo, dovesse in qualche modo abbandonare Android. Però è anche vero che se non si prende Android, cosa si fa? Un nuovo ecosistema? Nuove app? Cioè, il punto è che oramai il virus, se vogliamo chiamarlo così, Sì. è diffuso in tutto l'organismo. È difficilissimo. Guardate, basta vedere la fatica improba, quasi oramai fallita, diciamo, che ha fatto Microsoft per cercare di imporre un terzo ecosistema. Sembra che non ci sia spazio per un terzo ecosistema. C'è il mondo iOS e c'è il mondo Android. Adesso pensare di mollare Android, le sue app, eccetera, eccetera, è impensabile. Quindi Samsung cosa dovrebbe fare? Quello che sta facendo è di fatto personalizzare, continuare a personalizzare e creare una serie di servizi, S-Voice, S-Assistant, senza, S-qualcosa. Senza grande, no? Successo. Ma insomma, beh, gli utenti Samsung ci si ritrovano, vabbè, sì, però non è che sia una cosa pervasiva. Comunque restano ostaggio di un sistema operativo di Google. Quindi nel questo gioco che è un braccio di ferro, è vero che Google c'ha da perderci, ma è anche vero che tutti gli altri produttori di smartphone, se devono fare un telefono e non dovessero avere a disposizione Android, che fanno? Cioè, se domani mattina questo Pixel, domani, dopodomani, eccetera, eccetera, dovesse incominciare a prendere piede, incominciare ad avere una gamma importante che possa soddisfare i clienti di tutte le tasche, di tutte le esigenze, e parliamone, perché sono problemi, potrebbe sì, essere sì, che Google dice Android non è più supportato, e Google Assistant su Android non arriverà mai, e l'aggiornamento dell'app di YouTube per Android base non è più supportata. Cioè, questo negli certo, anni è un'ipotesi remota nel tempo, però nel tempo. Sì, ma se dovesse farlo, certo, che sì, succede? Che il mercato degli smartphone diventa un mercato di due produttori del sistema operativo, già come oggi, e praticamente, e anche due produttori hard. Quindi lo scenario possibili sono tantissimi. Tutto molto dipenderà dal livello di accettazione di Pixel sul mercato. E infatti non mi stupisce quello che ci raccontava Carolina prima delle grandi campagne pubblicitarie che Google sta facendo per sostenere Pixel. È una partita che è molto più importante della vendita di un telefono. Gianfranco, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie mille. Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter. Adesso parliamo di un paio di servizi nati grazie alla tecnologia, grazie a internet e anche agli smartphone, le app, i siti mobile, eccetera, eccetera. E per mettere in contatto le persone che vivono in casa e hanno le esigenze più disparate proprio per organizzare la propria casa, a volte serve un imbianchino, un vetraio, un idraulico, oppure uno che fa le pulizie, una persona che mette a posto il giardino. Due idee. Iniziamo con Eugenio Alvise Vigilante, è il CEO, l'amministratore delegato di Eugenio. Benvenuto. Grazie. Partiamo dal servizio che voi avete lanciato. Intanto diciamo che voi siete parte di un grosso gruppo che si occupa di pulizie e manutenzione, che si chiama ManutenCop, giusto? Assolutamente sì. ManutenCop è il leader italiano nel mercato del facility management, ha una vastissima gamma di servizi in ambito manutentivo, pulizia, verde, che offre alla propria clientela pubblica e privata, che però è una clientela tipicamente business, quindi aziende sanitarie. Il cliente sono le aziende, grandi aziende. Il nostro cliente sono le aziende, sia pubbliche che private, molto, lavoriamo molto con la sanità, ad esempio. E voi avete lanciato da poche settimane un sì, servizio che si chiama Eugenio. You come you, tu, all'inglese tu, genio perché era bello come nome. Eugenio che cosa fa? Eugenio offre una vastissima gamma di servizi all'immobile, quindi alla casa. Sì, ma parliamo di una gamma di circa 120 servizi. Addirittura? Sì, sono 120 servizi che offriamo tramite il nostro portale www.eugenio.com. Sono servizi che vanno da tutti gli ambiti manutentivi che le possono venire in mente, quindi l'idraulico, l'elettricista, l'edile, il serramentista, il vetraio, eccetera, eccetera, sì, fino a tutti gli ambiti di pulizia che possono riguardare una casa, che una casa non necessita solo di una pulizia ordinaria, ma può necessitare anche di una serie di pulizie straordinarie. Infatti nei nostri pacchetti offriamo le pulizie di primavera, le pulizie post-party, le pulizie di primo ingresso, tutta una serie di servizi che ovviamente hanno un prezzo già definito, perché il servizio si definisce con alcune semplici indicazioni che l'utente ci dà, tipo quanti metri quadrati sono la casa, quanti bagni sono da pulire o che tipo di manutenzione è necessaria. Nel 50% dei casi siamo in grado di offrire un prezzo immediatamente, il cliente con due semplici clic può ordinare il servizio. In altri casi garantiamo o un preventivo, se il cliente ci richiede un preventivo nel giro di 48 ore glielo forniamo. Nei casi più complessi facciamo un sopralluogo senza diritto di chiamata, quindi non facciamo pagare i famosi 50 euro per l'uscita. Certo. Alcuni ascoltatori si chiederanno: ma perché parlate di questo in un programma che si occupa di tecnologia? Beh, prima di tutto perché è un servizio web-based, come si dice, cioè basato su web. Assolutamente sì. Abbiamo creato una piattaforma di e-commerce, di vero e proprio e-commerce, che riteniamo essere molto user-friendly, quindi molto semplice da utilizzare. In 5 semplici passaggi si può configurare il servizio di cui si ha necessità, ordinarlo, scegliere l'addetto che si preferisce, perché nella nostra piattaforma abbiamo inserito le foto e i profili dei nostri addetti, in maniera tale che sulla base delle proprie necessità uno possa ordinare un servizio e averlo presso la casa propria con la massima puntualità e la massima professionalità, perché questo è l'aspetto fondamentale. Tutti questi sono vostri dipendenti? La stragrande maggioranza sono nostri dipendenti, perché noi abbiamo fatto una scelta di non essere un semplice marketplace, cioè che non mettiamo in contatto la domanda con l'offerta, noi siamo direttamente l'offerta. Questo ci consente ovviamente un livello qualitativo molto più alto, perché fra l'altro abbiamo dei percorsi di selezione del personale e di formazione molto curati, e fra l'altro sono mestieri che noi conosciamo bene, perché come giustamente diceva lei apparteniamo a un gruppo che da 70 anni fa questo tipo di attività. Certo, però in questo caso la scelta è stata andiamo verso il mondo consumer. La scelta è stata esattamente questa. La nostra idea è cercare di capitalizzare quella che è il nostro know-how, quella che è la nostra esperienza tradizionale, per orientare la nostra offerta a un mercato che fino adesso il gruppo non aveva intercettato. E quindi l'idea per poter intercettare questo mercato è partito da un presupposto tecnologico, quindi avere una piattaforma che fosse molto semplice da utilizzare per l'utente finale e che potesse consentirgli di accedere a una vastissima gamma di servizi. Sì, anche mobile, cioè anche dal telefonino. Assolutamente posso fare tutto sì, questo? Assolutamente sì. Più o meno oggi il 55% degli accessi alla nostra piattaforma avviene da strumenti mobile, e a breve partiremo anche con due app, sia iOS che Android, che copriranno i nostri servizi. Certo, uno appunto può prenotare l'idraulico, può chiamare la persona che fa le pulizie in casa con l'applicazione. Assolutamente sì. Anche tutto il cosiddetto, chiamiamolo back office, quindi il rapporto che c'è, organizzare queste persone non è una cosa semplice, è tutto fatto via web, via mobile, come fate? Sì, è assolutamente così. Noi abbiamo dovuto necessariamente e voluto tenere una struttura di back office molto snella, e quindi abbiamo creato tutta una infrastruttura tecnologica che ci consenta di interagire con i nostri addetti attraverso lo smartphone. Quindi i nostri addetti ricevono gli ordini attraverso lo smartphone, accettano l'ordine attraverso lo smartphone e poi ci segnalano quando iniziano e quando finiscono le attività per le quali sono stati incaricati. Fanno check-in e check-out. Fanno sostanzialmente un check-in e check-out. Quindi tutta la pianificazione avviene attraverso un sistema tecnologico. Noi ci siamo basati sulla piattaforma di Microsoft, e quindi da questo punto di vista abbiamo potuto ridurre all'osso la struttura di back office che è necessaria per gestire un progetto di queste dimensioni, perché poi ricordiamoci che siamo partiti su 3 città, Milano, Bologna e Firenze, ma la nostra intenzione ovviamente è espanderci molto, molto velocemente in tutte le città italiane superiori ai 50.000 abitanti. Sì, perché Manutencoop opera in tutta Italia. Manutencoop è presente in tutte le regioni italiane, sì. Sì. Se uno si vuole candidare, cioè se io sono un idraulico, come allora, faccio? Noi affianchiamo al nostro portale anche un servizio clienti, abbiamo un customer care dedicato a Eugenio. In questo momento stiamo raccogliendo le candidature attraverso il nostro customer care. È 800 129 129 il numero, e attraverso questo numero ci sono già pervenute un numero interessante di candidature che mettete, diciamo, nel mix che offrite ai vostri clienti. Alcuni sono dipendenti, altri sono liberi professionisti. No, se ci interessa il candidato noi lo assumiamo assolutamente. Il nostro modello di business prevede che nella stragrande maggioranza dei casi i mestieri, le attività le eseguiamo con i nostri dipendenti. Mm. Poi è chiaro che ci sono dei casi molto specifici. Posso fare un esempio che faccio sempre: il vetraio. Il vetraio non è una professione che è così richiesta, quindi è chiaro che non è conveniente per noi assumere un vetraio. Certo. Se domani però avessimo il boom delle richieste di vetraio, assumeremo un vetraio, due vetrai, quello che serve. Non è che si spacca, cioè, mentre pulire devi farlo tutte le settimane, se non tutti i giorni, non è che ti si spacca un vetro. I pulitori, ad esempio, sono tutti i nostri dipendenti, non abbiamo nessun subappalto da questo punto di vista. Certo. Parliamo di tecnologia e mi piacerebbe allargare un po' lo sguardo, perché voi siete un grande gruppo, siete 20.000, sì, quindi non pochi, e fate pulizie e manutenzione, come abbiamo detto all'inizio. Anche in questo settore come state usando la tecnologia? Quali sono anche le nuove, chiamiamole, frontiere tecnologiche? Perché uno pensa a un'azienda che fa pulizie e dice vabbè, business abbastanza semplice, no? Invece stanno succedendo cose fantastiche. Sì, è un mondo vario e variegato. Posso dire questo, che fino a 10 anni fa si poteva anche offrire ed erogare i nostri servizi tradizionali senza il contributo della tecnologia. Oggi ci sono alcuni servizi sui quali non è più pensabile erogarli senza la tecnologia. Faccio un esempio: noi gestiamo ad esempio la logistica farmaceutica di alcune importanti ASL italiane. È chiaro che se noi non avessimo una perfetta tracciatura del farmaco, del percorso che il farmaco fa, e il monitoraggio costante delle temperature, noi non saremo in grado di erogare quel servizio. Dal punto di vista delle innovazioni sono le più varie. Le pulizie, che pure potrebbero sembrare un mestiere, come posso dire, semplice, in realtà sono un mestiere che si sta sempre più evolvendo anche dal punto di vista tecnologico. Per dirne una, noi abbiamo già dotato gran parte delle nostre responsabili di servizio a livello igiene di tablet attraverso le quali consuntivano i lavori che fanno presso i nostri clienti e ottengono digitalmente la firma e l'autorizzazione a fatturare da parte dei nostri clienti. Quindi abbiamo sostanzialmente eliminato una marea di carta dal ciclo di vita del processo produttivo. Stiamo studiando anche soluzioni di pulizia attraverso forme di robotizzate, quindi soprattutto nei grandi spazi possono essere delle innovazioni che portano beneficio dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Certo, un centro commerciale alla notte gli mettete il robot e è finita lì. Sono aspetti che vanno studiati con attenzione, ma sicuramente sono molto interessanti, e ci sono paesi come gli Stati Uniti in cui queste dinamiche sono sicuramente molto più avanzate rispetto a noi. Sì. Droni? I droni è un qualcosa che stiamo studiando, perché è chiaro che noi facciamo un grosso lavoro di mappatura dei patrimoni immobiliari dei nostri clienti, perché per erogare le manutenzioni è necessario sapere esattamente cosa andiamo a manutenere. Quindi il tema dei censimenti anagrafici patrimoniali degli immobili dei nostri clienti è un tema centrale ed è anche una ricchezza per l'azienda. Siamo partiti anni fa con una mappatura fatta attraverso semplicemente dei foglioni giganteschi di carta in cui si tracciava l'immobile, si tracciavano gli impianti. Oggi i nostri operatori sono dotati di tablet attraverso i quali andare a mappare tutto l'edificio. Stiamo studiando anche la soluzione attraverso droni, quindi tutto l'esterno può essere sicuramente mappato, certo, attraverso l'utilizzo di un drone. Noi stiamo parlando, in questo caso ci siamo spostati nella vostra dimensione business, quindi i servizi che più voi tradizionali, che erogate alle aziende. Noi sappiamo che già alcuni nuovi palazzi, alcuni nuovi uffici e anche alcune nuove fabbriche, ma lo sarà sempre più in futuro, stanno diventando, come si dice, smart, piene di sensori. Ecco, questo come potrebbe cambiare il vostro lavoro? Ma guardi, posso fare l'esempio di Eugenio per tornare un attimo alla startup che abbiamo lanciato. Uno dei nostri piani, delle nostre attività che abbiamo inserito all'interno del nostro business plan, riguarda proprio la domotica. Non tanto perché noi siamo interessati a vendere prodotti legati alla domotica, quanto perché questi prodotti possono scatenare un fabbisogno, quindi la necessità di un intervento da parte nostra e quindi da parte del cliente la richiesta di un servizio. Prendiamo la caldaia, no? Tutti noi sappiamo che dobbiamo manutenere la caldaia una volta all'anno. a me stesso è capitato spesse volte di dimenticarmi, onestamente. Sì. Se noi avessimo un sensore che segnalasse a noi che quella caldaia richiede manutenzione, noi potremmo agevolmente contattare il cliente, proporgli il servizio e andare a eseguire nei tempi dovuti quell'intervento. Questo è solo un esempio. Ce ne molto sono... bello, sì, mi piace. Quindi non solo l'edificio, se diventa più intelligente, potrebbe interconnettersi e mettersi in contatto con voi, cioè l'edificio potrebbe dire ad un certo punto: oh, bisogna che venga qualcuno a pulire, perché c'è dello sporco in giro. Ma qui abbiamo aperto il tema, ad esempio, degli elettrodomestici smart che pian pianino arriveranno, e quindi se voi, non so in che modo vi potreste connettere, perché qui bisogna mettere d'accordo il cliente, cioè io che ho a casa una lavatrice ad esempio, il produttore della lavatrice e voi, perché anche in quel caso se la lavatrice si rompe, uno scenario potrebbe essere, e non è una cosa tecnologicamente impensabile. No, assolutamente. La lavatrice chiama direttamente voi e ad un certo punto suona il campanello e dice: sono uno di Eugenio che è venuto ad aggiustare la lavatrice. Io dico: ma perché si è rotta la lavatrice? Sì, guardi, è la lavatrice che mi ha avvisato. Sì, assolutamente. Non è fantascientifico. Non è fantascientifico, e secondo me ci arriveremo. Da un certo punto di vista pensavamo che quello che oggi fanno gli smartphone 10 anni fa fosse fantascienza. Oggi lo fanno, già stiamo pensando a quello che faranno fra 5 anni. Quindi tutto questo mondo è assolutamente innovativo, sotto controllo da parte nostra, ci investiamo molto. Le dirò di più, un tema sul quale stiamo indagando e stiamo prendendo la decisione di intervenire è anche il tema dei pagamenti. Ormai il pagamento tramite smartphone è un qualcosa che ci dobbiamo aspettare, e per noi come Eugenio è un elemento chiave, perché quando siamo nella casa del nostro cliente spessissime volte ci succede che ci chieda di fare un altro intervento, un altro lavoro, un'altra attività. Certo. Oggi noi accettiamo pagamenti solo con carta di credito, per ovvie ragioni. Potremmo accogliere il pagamento del cliente direttamente tramite il nostro addetto dotato di uno smartphone. Certo. Quindi anche da quel punto di vista è un'innovazione tecnologica sicuramente molto interessante. Ci sono molti prodotti che stiamo analizzando, stiamo verificando, e sicuramente partiremo anche con questa ulteriore innovazione. Certo, io prendo già il caffè con lo smartphone. Assolutamente. Anche nei nostri uffici hanno cioè messo... pago, diciamo, il caffè lo prendo al modo tradizionale. Bene, io ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro e in bocca al lupo, a presto. Grazie per la disponibilità. Adesso parliamo di un altro servizio che nasce invece all'interno di una realtà molto più piccola, cioè una startup fondata da due giovani italiani per sostanzialmente soddisfare esigenze simili a quelle che abbiamo raccontato, ma partendo da presupposti diversi con un sistema diverso. Saluto Luca Menti, che è uno dei fondatori di Vicker. Benvenuto 2024. Grazie. Allora, partiamo proprio dalla ABC. Che cos'è Vicker? Che cosa avete realizzato? Certo, praticamente noi abbiamo creato un sistema, un portale e anche un'applicazione, e con il quale posso richiedere qualsiasi tipo di intervento a casa mia. Qualsiasi tipo di intervento, intendiamo le riparazioni, il babysitting rispetto alle cure per la persona, le pulizie domestiche, insomma tutte quelle piccole sfide giornaliere che vanno a colpire le famiglie ogni giorno. Certo, l'imbianchino, eccetera, esatto. Eccetera. Ecco, dicevo, ci sono dei siti che propongono i preventivi. Sì. Voi invece avete detto: no, da noi non si fanno i preventivi. Mm-hmm. Perché praticamente abbiamo ribaltato il sistema, e sarò io stesso, quando richiedo un servizio, a determinare il luogo, la data e soprattutto il mio budget. Faccio un esempio: ho bisogno di un giardiniere sabato mattina alle 12 a casa mia e posso spendere 80 euro. Da lì, entro pochi minuti, riceverò le candidature dei giardinieri iscritti al sistema, i quali saranno stati sia verificati e sia coperti da un'assicurazione, pronti ad aiutarmi e a fare quel tipo di lavoro. Sì, voi, ecco, diciamo subito che al momento siete attivi a Roma, Milano, Vicenza e Padova. Sì. Vice, Roma-Milano, diciamo, si parte sempre dalle due città più importanti in Italia, Vicenza e Milano, perché voi siete partiti dal Veneto, e siete attivi solo in queste zone perché verificate, cioè andate a intervistare le persone che fanno parte di questo network. Sì, come sebbene non sono persone assunte da noi, perché il sistema genera tutta la documentazione per ogni singolo lavoratore per farlo lavorare totalmente in regola, e a livello di garanzia, proprio per andare a garantire un servizio che sia di alta qualità e soprattutto anche per poter permettere un'assicurazione, perché non possiamo assicurare sconosciuti, certo, abbiamo fatto proprio la scelta di aprire dei point all'interno delle nostre aree, solitamente ce n'è almeno uno per provincia, nel quale praticamente chi richiede la verifica del chi si iscrive come lavoratore e richiede la verifica del proprio profilo dovrà fare un iter, prima innanzitutto dandoci tutti i documenti che richiediamo, e poi seguirà un incontro che può essere o live, quindi proprio in sede, massimo uno Skype, però comunque dobbiamo vederli in faccia tutti quanti, proprio perché essendo che generiamo tutta la documentazione per farli lavorare in regola, non possiamo generarla sbagliata. Voi intermediate mano d'opera, cioè professionisti che vengono a casa a fare un lavoro. Tutti possono candidarsi, poi voi fate la verifica. Come avete risolto il problema dei lavori in nero, della documentazione che anche io come utente dovrei ricevere, banalmente una ricevuta? Allora, praticamente ti verrà richiesto di, a garanzia del lavoratore, congelare la somma, la quale verrà tenuta a titolo di conto deposito da Vicker e verrà data al lavoratore solo dopo 48 ore che il lavoro è stato svolto correttamente. Questo aiuta due cose. Aiuta intanto a non creare mai insoluti nei confronti dei lavoratori, e quindi aver creato per noi anche un lato di garanzie per quelli che sono gli operatori di questo servizio. In più aiuta il sistema a generare tutta la documentazione necessaria che mi verrà consegnata, e soprattutto ci permette di avere un'assicurazione per le 24 ore, sia anche durante il tragitto che di questo operatore che verrà a casa mia, sia quando se ne va e che quando se ne viene, perché avere un lavoratore a nero a casa oggi è un rischio grave, ma non per quello che riguarda solamente la legge, perché se si fa male non solo dal punto di vista fiscale, cioè, ma anche per quanto riguarda la responsabilità. Se una persona si fa male a casa mia perché magari mi sta dipingendo o mi sta cambiando il lampadario e cade dalla scala, se non è coperta un'assicurazione sono veramente gravi problemi, ma gravi, cioè per chi ha richiesto il servizio. Proprio per questo noi abbiamo voluto sgravare qualsiasi tipo di responsabilità e rischio da chi richiede questo tipo di servizi con questo sistema. Senti, ma se domani Airbnb si mette a fare il vostro mestiere? Beh, se domani Airbnb si mette a fare il nostro mestiere, intanto penso che abbiamo avuto una buona idea. Certo. Il primo. E secondo, un po' di sana competizione fa scatenare in noi, che siamo comunque originariamente dei creativi, altre cose per andare a dare qualcosa in più che magari loro non hanno pensato. Perché come voi naturalmente guadagnate su una commissione, giusto? Che noi abbiamo un totale che è il 20%, che non va caricata all'offerta, ovvero praticamente se io offro 100 euro sarà il lavoratore a vedere già la cifra netta per cui candidarsi. Questa commissione serve esclusivamente per un po' di costo del servizio, perché gli sviluppatori costano tanto. Certo, giusto che paghiate gli sviluppatori. Ma più che altro perché noi abbiamo proprio un'assicurazione da pagare nei confronti del lavoratore. Generiamo tutta la documentazione, e soprattutto con un sistema molto innovativo tecnologicamente, perché il sistema riconosce il regime fiscale di ogni singolo lavoratore. Può essere un pensionato, può essere uno studente, può essere una persona che lavora per arrotondare, può essere ovviamente un professionista con partita IVA, oppure un disoccupato. Luca, parliamo anche dei feedback, dei giudizi che io posso dare ai lavoratori. Ogni lavoratore è soggetto a feedback in tutte le piattaforme normali. Nella nostra anche chi richiede è soggetto a feedback. Ah, cioè il cliente. Perché noi abbiamo voluto creare questo. Allora, il lavoratore viene giudicato per la sua puntualità, la qualità del lavoro fatto, eccetera. Però chi richiede il servizio deve essere, mettiamo la brutta parola, giudicato, o meglio dai, valutato, e per la cortesia, certo. Perché quello che anni fa mi ricordo che quando veniva qualcuno a lavorare a casa dei miei genitori, mia mamma un caffè lo preparava sempre. E certo, quello che vogliamo certo. far noi è proprio andare a far riemergere quei vecchi sentimenti, rapporti, quei rapporti proprio dell'umano. Quindi io so che tu farai del tuo meglio a casa mia perché vuoi le tue 5 stelline e vuoi lavorare ancora, e io voglio fare del tuo meglio perché la prossima volta che richiederò un servizio, anche agli occhi degli altri lavoratori, sarò un buon utente. E questo è il nostro vanto, perché adesso, dopo i primi mesi di attività, abbiamo già chiuso più di 1000 transazioni, quindi più di 1000 match sono già stati chiusi, e la media di queste stelline con un massimo di 5 è di 4.91. Quindi vuol dire che c'è sia una qualità sia una soddisfazione del prodotto che è fantastica. Luca, in bocca al lupo. Grazie. E anche per questa settimana abbiamo terminato. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a enrico.pagliarini@radio24.it, ma se volete, tanto alla fine finisce tutto nello stesso cassetto, nello stesso imbuto, 2024@radio24.it. Ci sentiamo la prossima settimana, continuate a scriverci per segnalarci sia come ascoltate 2024 in podcast. Sono molti quelli che ci ascoltano durante lo sport, l'attività sportiva, quindi mentre corrono, mentre fanno altro tipo di attività, ma poi ci sono anche altri momenti della giornata o della sera o della notte in cui ascoltate 2024. Ci risentiamo la prossima settimana.